Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del lavoro, perché oggi ci sono vari rapporti sul lavoro, soprattutto in Italia. L'OCSE fa notare che l'occupazione in Italia continua a calare, ma soprattutto l'Unione Europea ha fatto notare che in Italia crescono disoccupazione e povertà. Li ringraziamo, ci eravamo arrivati anche da soli, ma soprattutto che l'Italia è il paese dove dal 2008, da quando è scoppiata la crisi, il declino è stato più elevato, e questa non è una bella notizia. Non vuol dire che è stato il declino più alto, vuol dire che, diciamo, la differenza tra come si stava fino al 2008 e come si sta adesso, in differenza in negativo chiaramente, è la più forte. Solo Romania e Grecia fanno peggio di noi, ma la loro situazione era già compromessa, era già pesante prima del 2008. Come lo si fa a capire? Lo si fa a capire con la percentuale degli occupati, cioè di chi ha un lavoro, ma che non riesce a vivere solo con lo stipendio che riceve. In Italia questa percentuale è del 12%, in Grecia e Romania è del 14%, ma era già più alta prima. Per cui noi siamo quelli che sono beccati, diciamo, lo scalone in negativo, lo scivolo più forte. No, lo dico al di là di tante dichiarazioni della politica o di signori che fino a poco tempo fa sostenevano che la crisi fosse un'invenzione della stampa, dei pessimisti e quant'altro. Noi siamo il paese dove il declino si è fatto sentire più lungo. Tra l'altro, questo nel giorno in cui sempre l'Unione Europea fa sapere che l'Italia è il paese peggiore per chi perde lavoro dell'Unione Europea. Perché? Perché è più difficile trovare le possibilità di trovarne un altro sono le più basse d'Europa, tra il 15 e il 14% entro un anno, le più basse di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Anche questo lo dico perché ne parleremo tra brevissimo. Forse quando si parla di mercato del lavoro più flessibile, più dinamico, si può modificare la riforma Fornero, ci mancherebbe, ma non si fa un esercizio di accademia. Si ragiona perché questo resta il mercato del lavoro più ingessato che c'è in Europa. È ingessato in uscita, è verissimo, ma è ingessato anche in entrata e soprattutto è ingessato nell'incrocio tra domanda e offerta. Ancora la disoccupazione, già lo dicevamo ieri, crescerà anche nel 2015. Devo dire che il Fondo Monetario, ne parleremo nella seconda ora del programma, oggi ha diffuso delle stime migliorative sulla crescita mondiale e anche sulla crescita dell'area euro. Stima infatti il Fondo Monetario che a livello mondiale quest'anno crescerà l'economia del 3,7% e del 3,9% nel 2015. Nell'area euro più 1% quest'anno e più 1,1% l'anno prossimo. Stati Uniti più 2,8% quest'anno e più 3% l'anno prossimo. L'Italia quest'anno 0,6, per cui lontano dalla stima del governo che è 0,8-1%, l'anno prossimo più 1,1. Quindi 0,6 vuol dire stagnazione con un po' di crescita, un accenno di crescita, e la crescita vera e propria nel 2015. Tant'è che il Fondo Monetario ha rivisto un po' al ribasso la nostra crescita per quest'anno, era 0,7 prima, e un po' al rialzo quella per 2015, era lo 0,9, adesso siamo, era l'1%, siamo all'1%. E uno. Questo nel giorno in cui tra pochi minuti si aprirà il forum di Davos, quel forum nella simpatica e ridente località montana svizzera in cui si incontrano tutti i grandi del mondo o cosiddetti grandi del mondo, oltre 2500 delegati, tra cui 40 capi di Stato di governo, dal primo ministro Enrico Letta a quello giapponese Shinzo Abe. Vi sarà il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il direttore del Fondo Monetario Christine Lagarde, oltre a banchieri centrali e ministri degli esteri. Il titolo di quest'anno è un titolo molto molto modesto, che vola basso: rimodellare il mondo, conseguenze per società, politica ed economia. Fa apparire Dio come una specie di ragioniere, ma loro hanno sempre ambizioni altissime. Peccato che poi da Davos non sia arrivato nessun avvertimento su quello che stava succedendo poi nel 2007-2008. L'unico fu Rubini, preso per i fondelli a quel tempo dall'allora ministro Tremonti, che lo chiamò Udini, se ricordate quel passaggio. Però fu l'unico a mettere in guardia dalla crisi che stava scoppiando. Tutti gli altri, forse l'aria è un po' rarefatta nelle montagne svizzere, erano tutti tranquilli e sereni, che tanto lo shock sarebbe stato di breve durata. Poi è iniziata la peggiore crisi dal 29. Complimenti alla capacità di preveggenza di Davos. Quello che invece è certo è che le disparità, le disuguaglianze a livello mondiale stanno aumentando e aumentano anche nei paesi emergenti, Brasile, Indonesia, Cina, ossia la differenza tra l'1% più ricco e l'80% più povero continua a aumentare. Lo fotografo molto bene oggi l'organizzazione no profit che si occupa della lotta alla povertà nel mondo, Oxfam, che è la prima a livello in Gran Bretagna, una delle più grandi a livello mondiale, che spiega come gli 85 persone più ricche del mondo, ci sono anche degli italiani tra questo, del vecchio Prada e me ne sfugge uno, hanno da soli una ricchezza pari alla metà della popolazione mondiale, cioè 85 persone hanno da sole una ricchezza che è pari a quella di 3 miliardi e mezzo di persone. Ora non serve essere populisti, demagogici, ma qualcosa non sta andando, e soprattutto questa diversità e questa divergenza sta aumentando. Anche di questo parleremo, e poi come sempre della borsa, fermo restando che il numero per i vostri sms è 349-238-6666, e poi c'è la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa, dicevo, più 0,21%, e Parigi invariata, Francoforte invariata, Londra fa 0,07 anche oggi, ma che sia abbonata a 0,07. L'America ieri chiusa per il Martin Luther King Day, oggi perde lo 0,75%. In Italia tra i titoli meno 3,80% Telecom Italia, meno 3,40% Saipem, meno 2,80% Pop Milano, meno 2% Monte dei Paschi, meno 1,80% Jux, meno 1,70% Tenaris, meno 1,40 Unipolsai e il Banco Popolare. Bene di nuovo Finmeccanica più 3,50, Ansaldo più 3, Luxottica più 2,5, Tod's più 2, Atlantia più 1,80, Fiat più 1,70, Ubibanca più 1,30, Enel più 1,1, come la Popolare Emilia Romagna lo 0,90 guadagna G-Tech. Qualcuno dice che il terzo italiano nei primi 85 più ricchi al mondo, il nome che mi sfuggiva era il mio. No, magari, guardate, farei lo stesso questo programma perché mi diverte, ma non sono il terzo italiano, è in realtà Ferrero, sono Ferrero, Prada e Del Vecchio, i tre italiani tra gli 85 persone più ricche al mondo, che da soli hanno un patrimonio pari a metà della popolazione mondiale. È inutile che scriviate Trotsky, Barisoni, perché il problema non è il trotskismo, ammesso che chi lo scrive sappia esattamente di cosa si occupava Trotsky e il trotskismo. Il problema è capire perché, nel momento in cui i paesi occidentali hanno affrontato da 5 anni, 6 ormai, la più grande crisi economica e finanziaria dal 29, nel frattempo la diversità, la quota di reddito detenuta dal 10% più ricco in Cina, in Indonesia, in India, in Pakistan, in Nigeria, lasciamo stare i paesi occidentali, la quota di reddito detenuta dal 10% più ricco è aumentata, mentre la quota di reddito detenuta dal 40% della popolazione più povera è diminuita. Okay? Per cui non si possono mostrare i grafici in radio, ma è proprio una divergenza totale. Vabbè, andiamo avanti con le altre notizie invece, al di là della borsa e delle stime del Fondo Monetario Internazionale. Faccio notare, visto che già ci siamo occupati della Germania e dell'aiuto che ha dato la Germania alle sue banche del territorio, le sue casse di risparmio regionali, le Landesbank, un aiuto che non ha dato, non vuole dare agli altri paesi, alle banche degli altri paesi, ma quando ha avuto lei le banche in difficoltà e come se le ha aiutate. Questo per dire che sì, In Europa sembrano gli animali della fattoria di Orwell. Sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Vale anche per la Francia, perché io mi chiedo, dov'è l'Unione Europea? Se lo chiede benissimo oggi Alessandro Platerotti su Sole 24 Ore. Dov'è l'Unione Europea così attenta con l'Italia a punire gli aiuti di Stato nella vicenda Peugeot? Perché lo Stato francese, assieme al gruppo cinese Dongfeng, è entrato nel capitale del gruppo automobilistico Peugeot. Sia lo Stato francese che i cinesi si sono presi il 14% ognuno, quindi sborsando 750 milioni. La quota in mano alla famiglia Peugeot scende dal 25 al 14%. Il tutto si inserisce in un aumento di capitale da 3 miliardi di euro, perché il gruppo non va bene, serve rafforzare e rimpinguare la cassa. Le vendite hanno fatto meno 7% nel 2013 contro un mercato in Europa che è sceso dell'1,6% e ha perso Peugeot mezzo miliardo di euro solo nei primi sei mesi di quest'anno. Però voglio dire, io ricordo, e lo ricordo giustamente Platerotti oggi su Sole 24 Ore, una dura presa di posizione di Bruxelles contro l'operazione Poste all'Italia. No, il fatto che le Poste potessero entrare in Alitalia solo a patto che tutti... Benissimo. Però, voglio dire, è su Peugeot? Bruxelles dorme? Cioè, lo Stato francese può entrare col 14% per salvare un gruppo privato che è in estrema difficoltà e nessuno dice niente? Tra l'altro, sempre i francesi, che quando c'è da difendere la Francia, la grandeur, sono capaci di tutto. Per inciso abbiamo visto dei giornalisti francesi molto timidi nella conferenza stampa di Olanda. Noi spiegavano le domande che dovevamo fare a Berlusconi su Bunga Bunga, ma loro... quando c'è stato da chiedere a Hollande se era tutto normale che uno girasse in motorino per la sicurezza nazionale, non si è alzata una voce, e la grandeur, eh? Allora, detto ciò, che non c'entra nulla, ma insomma, come si fa a dimenticare che lo Stato francese ha investito anche in France Telecom, ne ha il 27%, e appunto la Germania stessa ha il 31% di Deutsche Telekom e nessuno batte ciglio. E ricordavo prima, la Germania ha tirato fuori 100 miliardi di aiuti per le sue banche del territorio, le Landesbank. Noi ci rompono le scatole giustamente per i 4 miliardi di prestiti al Monte dei Paschi. Questi hanno tirato fuori 100 miliardi per salvare le banche piene di titoli tossici americani e inglesi, e poi vengono a dare lezioni di rigore, eh? E rigore per gli altri. Poi, per spiegare che insomma bisogna guardarsi bene in casa, faccio notare che la Golf Volkswagen svetta da sempre nelle statistiche delle auto preferite dai tedeschi. Questa è una statistica che elabora l'Automobile Club tedesco, che si chiama ADAC. Si è scoperto che queste statistiche erano truccate, ma guarda che i tedeschi, a forza di stare in Europa, stanno diventando come gli italiani. Le statistiche erano truccate perché anche lo scorso anno la Golf risultava per l'ennesima volta prima con 34.000 voti. Peccato che i voti reali fossero appena 3.400, e il sospetto è che l'Automobile Club più grande d'Europa, quello tedesco, a 19 milioni di iscritti, perpetrasse una vera e propria truffa ai danni dei marchi concorrenti. Ma no, meno male che l'ha scoperto l'edizione domenicale della Bild. Visto che citavo Sole 24 Ore, conviene leggere oggi un'intervista anche che fa Angelo Mincuzzi al mitico Hervé Falciani, la talpa che ha sottratto alla banca svizzera HSBC le informazioni su 400.000 conti correnti di potenziali evasori, la lista Falciani. E lui ha confermato la presenza in Spagna di oltre 120.000 conti correnti della HSBC Private Bank rimasti segreti. Ha detto Falciani: la giustizia italiana dovrebbe chiedere il materiale, ma per prima cosa i magistrati dovrebbero creare una rete con i giudici di altri paesi. I file erano in un cloud memorizzati su internet. Dopo il mio arrivo in Francia alla fine del 2008 ho copiato nel mio computer soltanto una piccola parte del materiale, una lista di pochi nomi di cittadini francesi che avrebbero potuto fare un'inchiesta giudiziaria, far avviare un'inchiesta giudiziaria. Oggi invece gli spagnoli hanno tutto ciò che c'era nel web, i magistrati spagnoli. Domanda ai PM italiani, visto che siamo alla vigilia del dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma perché nessuno sta facendo una domanda di acquisizione di documenti ai PM, ai colleghi spagnoli? Da quello che ci risulta ci sono centinaia, forse migliaia di italiani lì dentro. Le procure, qualche procura si vuole svegliare in questo paese? O l'oggetto non interessa? Torniamo di nuovo sul caos, ne abbiamo parlato anche ieri, delle scadenze fiscali di venerdì prossimo. È un vero e proprio caos nei CAF, nei centri di assistenza fiscale. Se ne è occupata anche la nostra Deborah Rosciani all'interno di Cuore Denari. Scadono appunto venerdì prossimo i pagamenti per la mini IMU in oltre 2000 comuni italiani e la maggiorazione della TARES, che ricordo sono 30 centesimi al metro quadro. Ospite oggi a Effetto Giorno Guido Castelli, sindaco di Ascoli ma soprattutto responsabile dell'ANCI dei comuni italiani per la finanza locale, ha definito la vicenda un vero e proprio capolavoro di errori e complicazioni. Veramente un capolavoro di errori e di complicazioni particolarmente inutili, assurdo. Si potrebbe parlare di un Black Friday della finanza locale, a buon diritto, visto che in questi giorni, in questi minuti, decine di CAF, decine di fiscalisti stanno cercando il modo migliore per dire a quasi 10 milioni di contribuenti quanto pagare. Sono somme spesso irrisorie, ma enormi per quanto riguarda il costo di credibilità di un sistema davvero impazzito. Adesso qualche notizia sui nostri sulle nostre regioni. C'è chi mi scrive: ma questo non era un programma di economia, basta pettegolezzi. Mi può chiarire cortesemente quali sono i pettegolezzi? Gli aiuti che la Germania ha dato alle sue banche locali? La classifica sembra taroccata dell'auto più venduta in Germania? Oppure l'ingresso dello Stato francese non solo e anche soprattutto in Peugeot? No, chiedo, quali sono i pettegolezzi? Ah, quella cosa su Hollande, forse sì. No, è che non ho voglia più di ricevere lezioni da francesi e tedeschi, onestamente, su alcuni temi. La critica ce la facciamo uno da soli, l'autocritica la facciamo a sufficienza. A me i sorrisini tra la Merkel e Sarkozy, con quello che poi vediamo quando c'è da difendere la loro economia, sono tutti italiani, vogliamo metterla così? Anzi, siamo noi che siamo forse più francesi e tedeschi degli altri. Ma per favore, dopodiché i nostri problemi dobbiamo risolverceli in casa. E si chiamano anche cattivo utilizzo delle risorse pubbliche. Allora, continua la giunta Maroni nella regione Lombardia, continua a aprire il coperchio, fa bene, di parte della gestione di Formigoni. Non è un mistero per nessuno che Formigoni fosse, oltre che iscritto, non un vicino a CL, uno degli uomini più importanti di Comunione e Liberazione. Però dopo il caso di Infrastrutture Lombarde, anche le spese di Lombardia Informatica, un'altra holding regionale, sono finite nel mirino dell'inchiesta interna di Palazzo Lombardia. Non c'è la magistratura di mezzo, è la nuova giunta regionale di Maroni che vuole vederci chiaro. E anche in questo caso ha evidenziato spese senza eguali nell'ambito del sistema regionale per Lombardia Informatica. Dall'inchiesta emerge come i dirigenti utilizzassero le carte di credito aziendali per pagarsi viaggi nelle capitali europee, di norma 4 volte l'anno, e per altre spese personali. Anche, finito nel mirino della regione, anche il sovrautilizzo del parco auto aziendale, i premi in denaro distribuiti ai dirigenti fuori sede in maniera generosa. Allora, l'azienda, fondata nel 1981, è stata guidata negli ultimi 10 anni dal manager Giovanni Catanzaro, sostituito per volere di Roberto Maroni, del governatore Maroni, nel luglio scorso da Daniele Rovera. Pensate che venivano spesi a Lombardia Informatica 41.000 euro per abbonamenti alla stagione calcistica e teatrale, vi erano spese ricreative per 220.000 euro. Io vorrei sapere perché devo spendere soldi che vanno poi nelle addizionali regionali di chi abita in questo caso in Lombardia, ma sono soldi comunque degli italiani. Devo spendere 220.000 euro per le spese ricreative di chi lavora in Lombardia informatica. E poi 23.000 euro di prodotti enogastronomici per omaggi ai consiglieri regionali. E poi questa è bellissima, eh? C'era una convention, cioè Lombardia Informatica ha organizzato una convention, a parte il fatto che cavolo organizza una convention di Lombardia Informatica. Dove l'ha organizzata? Con convention di massa? A Bucarest. Che già lì, adesso con tutto il bene che vogliamo, un po' di sospetti, e qua mi fermo, ti vengono, ma perché Bucarest? Perché Bucarest? 43.000 euro ha speso per portare, capito, i top manager di Lombardia Informatica, con Bill Gates preoccupatissimo, la Silicon Valley che si interrogava, tutti a Bucarest, dove naturalmente il cloud... Il cloud a Bucarest. Vabbè, benvenga invece il giro di vite che la regione toscana vuole dare alle spese non strettamente necessarie. Era ora. La regione ha deciso di tagliare del 90% le spese per il catering durante riunioni, delegazioni, eventi, convegni promozionali, di comunicazioni ed altro. Dobbiamo usare bene le risorse, spiega il presidente Enrico Rossi, essere sobri e attenti alle spese. Non mi sembra una notizia, ma in questo paese sì. Le cifre risparmiate saranno destinate al fondo per il prestito sociale alle famiglie in difficoltà. Anche questo dovrebbe essere normale, non parte di un'agenzia in un paese normale. E comunque lo stesso presidente Rossi aveva annullato una gara nei giorni scorsi che prevedeva un importo massimo presunto e non garantito di 780.000 euro in 3 anni per tutte le attività di questo genere realizzate dagli uffici della giunta, dal consiglio, dagli enti dipendenti. Per cui insomma i servizi di catering per le riunioni, eventi, mangiatevi un panino, facciamo un catering più sobrio, tanto non è quello il problema. Sì, molti mi scrivono, andate a vedere a chi davano le commesse quelli di Lombardia Informatica, non lo so, lì può indagare la magistratura, intanto sta... aprendo il vaso di Pandora la stessa regione. So, alcuni scrivono agli amici di Formigoni, il gruppo di CL, non lo so, sono cose che si dicono da sempre, occorre che poi vengano confermate e verificate. Quello che è inaccettabile è appunto vedere 41.000 euro di abbonamenti per il calcio, per il teatro, 23.000 euro di prodotti enogastronomici per omaggi ai consiglieri regionali, ma non potevano spendere in altro modo, un bel banchetto fuori da quella, da quel palazzo, diciamo modello Las Vegas, per i poveri, per i meno abbienti, non lo so, spese ricreative per 220.000 euro. Io poi vorrei vederci chiaro in questa convention di massa a Bucarest, a 43.000 euro spesi, la gang convention, la convention, una bang convention. Vabbè, intanto, visto che Carlo Cottarelli, commissario alla Spending Review, ha detto partiamo dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che spende tantissimo per i caffè, per le fotocopiatrici, per quant'altro, la presidenza del Consiglio cerca di prenderlo in contropiede e vara un'operazione risparmio con cui si propone di spendere 5 milioni di euro l'anno in meno, quindi il 10% dei quasi 50 milioni di euro che sono necessari per far funzionare la presidenza del Consiglio dei Ministri. A febbraio la presidenza lascerà le sedi in affitto come quella di Via della Vita e Via dei Laterani, con un risparmio di 870.000 euro. Entra anche in attuazione il taglio di 16 auto blu, già previsto a luglio, e sono altri 125.000 euro che la presidenza del Consiglio dei Ministri risparmierà. Poi verrà limitato a casi di emergenza anche l'uso delle carte di credito e i permessi per il centro storico. In questo caso un risparmio previsto di 45.000 euro. Le nuove direttive incideranno anche sulle piccole spese e renderanno obbligatorie le gare d'appalto, precedute da analisi di mercato e da verifiche sulle reali necessità della spesa. Nuovo bando anche per i servizi di ristorazione e il bar della Presidenza, finora affidati con una procedura segreta, nonché la revisione dei contratti già in essere alla luce dei nuovi criteri di spesa. Tutto bene, ci chiediamo perché non l'abbiano fatto. Meglio che arrivino queste cose subito. Però perché il taglio del 10%, che non mi sembra devastante tagliare il 10% su 50 milioni, non l'abbiano fatto gli altri presidenti del Consiglio, tutti inclusi, chi ha governato per tanti anni con Berlusconi, ma anche Prodi. Non era un tema. La spending review nasce da 3-4 anni, da quando la crisi ha reso le scatole piene degli elettori e da quando, è vero, come scrive qualcuno, è nato il Movimento 5 Stelle. Prima non se ne sentiva parlare, non se ne sentiva parlare della spending review, delle spese del Consiglio dei Ministri, va. Meteo, pubblicità e poi andiamo a analizzare i dati drammatici sul lavoro in Italia, ma soprattutto questa cosa che dice Bruxelles: è l'Italia il paese dove è più difficile trovare un lavoro se si perde il lavoro e dove il declino è stato più forte da quando è scoppiata la crisi. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Sette 39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora parliamo della situazione del mercato del lavoro e appunto di questo rapporto dell'Unione Europea che dice un po' di cose: che l'Italia è il paese peggiore dove se perdi un lavoro hai più difficoltà a trovarne entro un anno un altro, solo tra il 14 e il 15%, all'ultimo posto di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Siamo anche il paese dove il declino ha colpito di più, perché il 12% degli occupati, cioè di chi ha un lavoro, non riesce a vivere del suo stipendio. Peggio di noi solo Grecia e Romania, ma che erano già messe male prima, quindi noi abbiamo avuto lo scivolone più forte. Ancora l'OCSE oggi specifica che l'occupazione nell'area euro cresce un po', ma in Italia continuerà a calare, e questo mentre anche il Fondo Monetario Italiano, Fondo Monetario Internazionale, scusatemi, stima comunque un aumento della disoccupazione anche per il 2014. E poi sale l'indigenza tra i lavoratori, crescono disoccupazione e povertà, lo dice il commissario europeo al lavoro Laszlo Andor, presentando appunto il rapporto 2013. Professor Pietro Ichino, che è anche senatore di Scelta Civica, buonasera. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. Allora, mi dica veramente una cosa: perché siamo il peggior paese per chi perde lavoro? Come dice l'Unione Europea? Perché il mercato del lavoro ha dei servizi che sono i peggiori rispetto a tutto il resto del continente. Perché in realtà non è che il lavoro, le occasioni di lavoro non ci siano. Intendiamo, ci sono troppo poche, è ovvio, però anche in un anno nero come il 2012 abbiamo avuto 10 milioni di contratti di lavoro, di cui il 17% a tempo indeterminato, cioè 1.700.000, ma perché ciò nonostante chi perde il lavoro ha la sensazione di non poterlo ritrovare? E perché chi frequenta i centri per l'impiego non frequenta i flussi di assunzione, e viceversa chi frequenta quei flussi, quei 1.700.000 contratti a tempo indeterminato, non si sogna di passare dai centri per l'impiego. E questo spiega perché noi possiamo avere un mercato del lavoro che, nonostante la crisi, macina dei flussi relativamente rilevanti di lavoro e però di assunzioni, e però chi cerca, chi ha bisogno e non ha le reti amicali, parentali, professionali necessarie, non riesce ad accedervi. Per questo è essenziale intervenire a mettere in comunicazione le politiche attive con le politiche passive del lavoro, cioè noi non possiamo continuare a erogare il sostegno del reddito, cassa integrazione, trattamento di mobilità, ma ignorando totalmente quello che occorre fare per mettere in comunicazione il disoccupato o chi cerca per la prima volta il lavoro, cioè, con i flussi interessi reali. Quindi lei dice, professor Ichino, che più, senatore Ichino, che più che il tipo di legge, di legislazione sul lavoro in senso stretto, riforma Fornero, riforma Biagi, è un problema anche di incrocio domanda e offerta, cioè non è solo la garanzia contrattuale. Che una... entrambe le cose sono importanti, perché anche la regolazione del rapporto di lavoro ha un peso, però qui il fenomeno per esempio del del lavoratore che perde il posto e resta 4, 6, 8 anni in cassa integrazione è dovuto a un grave errore nel modo in cui noi, proprio del metodo con cui affrontiamo la crisi occupazionale, il dire che chi perde il posto ha diritto a 2 anni di cassa integrazione è un errore gravissimo, perché la cassa integrazione non è lo strumento per sostenere la persona che perde il posto, è lo strumento per tenerla legata all'impresa d'origine. Sì, diciamo che qua c'è la esatto. Allora, noi stiamo, allora, se ho ben capito la sua critica, noi stiamo usando la cassa integrazione spesso come un sussidio di disoccupazione. Particolare la cassa integrazione in deroga, certo, con la quale arriviamo in qualche caso a oltre 10 anni di trattamento di cassa integrazione. Sì, allora, lei dice, la cassa integrazione nasce per tenere il dipendente legato all'azienda laddove ci sia un momento di crisi aziendale, di difficoltà momentanea, temporanea, congiunturale, diciamo 6 mesi, un anno. Altra cosa è utilizzarla come di fatto un sussidio alla disoccupazione, col doppio risultato negativo che da un lato tieni in vita aziende morte, se posso permettermi, soprattutto rapporti di lavoro che non esisteranno più, e con il doppio effetto che da un lato uno vive male ma rischia anche di non cercare un altro lavoro, non so come dire. Diciamo, la cassa integrazione, essendo un sostegno del reddito non condizionato alla attivazione del lavoratore nel mercato per la ricerca del nuovo posto di lavoro, ha un effetto di allungamento della disoccupazione, del periodo di disoccupazione. Sì, questo devo dire la verità, che in tutti gli studi, anche nel mondo anglosassone, si è sempre visto negli anni 70-80 che sussidi di disoccupazione molto alti, penso all'Australia ma non solo, tendevano ad allungare il periodo di disoccupazione. Lo traduco in termini semplici: se il sussidio ti dà da mangiare, certo che non vivi bene, ma ti dà da mangiare, da vestire, sei meno stimolato a cercare un posto di lavoro. Detto questo, allora a meno che non si adottino quei metodi che adesso sono praticati normalmente in Gran Bretagna, in Germania, in Austria, in Olanda, e che condizionano efficacemente un sostegno del reddito anche più robusto della cassa integrazione, perché la cassa integrazione sono 800-900 euro, non è mica un trattamento ricco, però anche un trattamento più robusto che sia condizionato alla disponibilità effettiva del lavoratore e che sia accompagnato con l'assistenza intensiva necessaria perché questa condizionalità funzioni effettivamente, ecco, allora questo, diciamo, la condizionalità evita che il sostegno del reddito faccia allungare i periodi di disoccupazione. Senatore Ichino, mi dica una cosa, poi ho il traffico per un'ultima domanda per lei. Oggi il rapporto dell'Unione Europea dice che l'Italia è il paese dove il declino ha colpito di più, ossia siamo al 12% come aumento di persone che pur con un lavoro non riescono a vivere del solo stipendio. Questo è grazie anche alla cuore di cavallo di Monti, visto che lei appartiene a quello che fu il partito di Monti. Questo è l'effetto di un lavoro che è valorizzato male. Ora, per valorizzare meglio il lavoro, cioè per renderlo più produttivo, occorre essere aperti ai piani industriali innovativi. Noi siamo il paese in Europa, tolta la Grecia, il paese più chiuso agli investimenti stranieri, e gli investimenti stranieri, è proprio misurato questo, portano con sé piani industriali che valorizzano meglio il lavoro. Naturalmente quando vengono in Italia gli investitori stranieri. Scusi, professor Ichino, scusi, io il traffico, ma lei non mi può dire che noi abbiamo avuto un declino più alto che negli altri paesi dal 2008 perché sono arrivati meno soldi stranieri? A me sembra che noi abbiamo avuto un declino più alto dal 2008 perché la cura da cavallo che ci ha imposto la Germania, che Monti ha accettato in maniera senza mai obiettare, ha impoverito con un aumento della tassazione gli italiani. Professore, non è che adesso manca gli investimenti stranieri. Mi dia la risposta dopo il traffico, per favore. Traffico. Yeah. 17.49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, senatore Ichino, Replichi, ma non con la teoria, perché sappiamo tutti che gli investimenti stranieri non vengono in Italia, ma non è dal 2008 che non vengono in Italia. Io le ho chiesto perché l'Unione Europea, visto che lei è senatore di Scelta Civica e quindi ha avuto come leader Mario Monti, chiesto presidente del Consiglio. Prego. Sto rispondendo. L'Italia si è trovata al termine del 2011 in una situazione in cui, se non si seguivano le politiche che sono state seguite per rimettere i conti pubblici in testo e riportare lo spread da 570 dove era arrivato ai 200 attuali, l'Italia andava a gambe all'aria. Quindi, se non si adottavano quelle politiche, oggi la situazione sarebbe molto peggiore di quella che è attualmente e probabilmente l'Italia sarebbe già fuori del sistema dell'euro. Ora, se noi fossimo fuori dal sistema dell'euro, altro che il declino di cui parlano i dati di oggi, avremo una situazione catastrofica. Allora, diciamo le cose come stanno. L'Italia fino al 2011 ha disperso il dividendo dell'euro, invece utilizzarlo come avrebbe dovuto nei 10 anni dal 2001 al 2011 per ridurre il debito, ha aumentato il debito e ha aumentato le tasse. È questo che ci ha portati al... Ma su questo siamo d'accordo. Siccome la domanda era, mi scusi senatore Ichino, però per essere precisi, la domanda era: come mai oggi l'Europa ci dice che siamo il paese perché in assoluto... siamo un'economia più fragile e più debole delle altre. Ok, ma perché la cura da cavallo che abbiamo dovuto fare dopo che il governo Berlusconi-Tremonti, con Tremonti e Berlusconi che litigavano ogni giorno e ci sputtanavano in tutta Europa, questo governo qua ci ha portato a 540 punti di spread, poi è arrivato Monti che subito ha fatto una cura da cavallo, è mancata completamente a mio avviso la forza di Monti nel chiedere a Bruxelles non solo i tagli e le tasse ma anche politiche di espansione. Monti, diciamo, era più europeista di molti europeisti e quindi il risultato è che oggi il 12% di chi lavora, unico paese in Europa al di là della Romania e della Grecia, non riesce a vivere del suo reddito. Cioè, questa è la ricostruzione che mi va bene, ma non gli investimenti stranieri. Abbia allora, pazienza. Io le sto dicendo che la cura Monti era indispensabile per rimettere il paese in condizione di andare avanti sulle sue gambe. Se avesse tagliato anche un po' di spesa pubblica, professor Ichino, se avesse tagliato anche un po' di spesa pubblica, allora, sarebbe stato più credibile. Netto della spesa per gli ammortizzatori sociali che non dipendevano da lui, il governo Monti è stato il primo in cui la spesa pubblica è stata ridotta di 6 miliardi, quindi un inizio di riduzione della spesa pubblica c'è stata, insufficiente, sono d'accordo, avrebbe potuto essere fatto tutto molto meglio, però non dimentichiamo che l'alternativa al governo Monti, altrimenti Berlusconi non se ne sarebbe andato. Criticare Monti non vuol dire difendere allora Berlusconi. Mi dica un'ultima cosa, però ho capito adesso il suo punto. Il piano Jobs Act, visto che lei è un esperto di lavoro, di Matteo Renzi, va riempito di contenuti, come dicono i critici, o ha degli elementi, diciamo, come architrave che la convincono? Abbiamo 2 minuti su questo. Intanto voglio vederlo, per ora abbiamo visto solo i titoli dei 6 capitoli che Renzi ci ha comunicato, aspetto di vedere il contenuto di quei 6 capitoli. Se il contenuto sarà quello che con lo stesso Renzi abbiamo presentato un anno e 2 mesi fa in occasione delle primarie del 2012, penso che sia un buon Jobs Act, e quei contenuti io li ho ripresentati nella primavera e estate scorsa, e sono il codice semplificato del lavoro, la sperimentazione di un rapporto di lavoro snello, meno costoso e più semplice, soprattutto a tempo indeterminato, e il provvedimento per l'active aging, per aiutare, incentivare l'invecchiamento attivo, cioè non risolvere il problema occupazionale dei cinquantenni prepensionandoli, però offrendogli delle occasioni di lavoro effettive, e la promozione del lavoro femminile. Ecco, sono tutta una serie di misure che, se verranno comprese in questo Jobs Act, vanno in quella direzione. Anche perché ricordo che poi nella parte di irrigidire il contratto del lavoro, cioè renderlo sempre più a tempo indeterminato, sempre meno licenziabile, passatemi l'esempio, man mano con un lavoro, è una proposta che arrivava anche da lei, senatore Ichino, erano due proposte che circolavano, comunque che è un contratto che diventa sempre e via via più rigido. Grazie anche per aver accettato il confronto al senatore di Scelta Civica Pietro Ichino. La borsa adesso più 0,11% Milano, Parigi invariata, Londra invariata, Francoforte più 0,15%, titoli migliori in assoluto, Finmeccanica più 3,50%, Ansaldo più 2,60%, Tod's più 2,20%, Luxottica pure, Ubibanca più 1,80% come Atlantia e Fiat, l'1% lo guadagna Enel e la Popolare Emilia Romagna, Telecom Italia il peggior titolo meno 4% come Saipem, Pop Milano meno 2,50, Jux meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,80, Tenaris meno 1,5 come Unipol Sai. Ne parliamo dopo il GR. Alle 18 e 7 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso facciamo la borsa e poi Davos e le varie analisi diffuse oggi da Ocse e Fondo Monetario. Una precisazione: allora, non parliamo di politica in senso stretto qui, abbiamo solo detto con Ichino, che è senatore di Scelta Civica, che è verissimo, è inutile che mi è ricordiate, lei ha attaccato Berlusconi che ha preso 3 volte i voti di Monti, sappiamo tutti come sono state le elezioni, abbiamo detto che è vero che il paese nel novembre del 2011 era sull'orlo del baratro, rendevano di più i BTP e i titoli di Stato a un anno, a 3 anni di quelli a 10 anni, quindi nessuno si fidava più delle risorse dell'Italia, lo spread era 540 punti, questo era merito tra virgolette del governo Berlusconi e Tremonti, dell'attacco speculativo, allora era un governo non credibile, anche perché se un ministro dell'economia va in giro a criticare il suo presidente del consiglio non si va da nessuna parte. Dopodiché la critica che mi ha fatto arrabbiare con Ichino è che non si può dire che quanto oggi pubblica l'Unione Europea, che dice che siamo il paese in cui il declino è stato più rapido, sia dovuto solo agli investimenti esteri, è stato dovuto anche a un aumento del prelievo fiscale fortissimo senza riduzione della spesa pubblica, non sono d'accordo che Monti abbia iniziato a tagliarla, e senza puntare i piedi in Europa, e sono dell'idea che Monti, lo abbiamo detto decine di volte, sia stato, non so per quali motivi, fatti suoi, troppo morbido con Bruxelles. Chiusa la parentesi, Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Andiamo rapidi, allora la borsa oggi piatta piattina più 0,11%, Telecom Italia peggior titolo meno 4% e anche Saipem meno 3,80%. Telecom e Saipem. Per Telecom una giornata di realizzi, meno 4% come tu ricordavi, arriva dopo un inizio anno più 16%, più 24% nell'ultimo mese, più 8% solo nell'ultima settimana. Un vuoto di notizie per oggi sulla questione Team Brasile ha fatto scattare dei naturali realizzi che si sono incrementati nel pomeriggio col peggioramento generale degli indici dovuta anche a una frenata e un dietrofronte di Wall Street. Per quanto riguarda Saipem invece l'intervista dell'amministratore delegato rilasciata oggi, l'amministratore delegato di Saipem appunto sul 2014 ha un po' deluso gli operatori perché si aspettavano qualche annuncio di contratto, nuovi contratti profittevoli in arrivo, mentre probabilmente bisognerà ancora aspettare per avere un ingresso di contratti importanti che possono piacere al mercato, e per questo il titolo è stato penalizzato e ha perso il 3,8%. Il commento sui migliori oggi: Finmeccanica più 3,50, Ansaldo più 2,60, poi c'è anche Luxottica più 2,20 e vorrei un commento anche su Fiat più 1,70. Finmeccanica, Luxottica e Fiat. Beh, per Finmeccanica l'attenzione era concentrata sull'audizione alla Camera dell'amministratore delegato Alessandro Panza, che ha parlato, ha confermato le strategie di dismissione del settore trasporti già in questi giorni si parlava di un interessamento da parte di General Electric appunto per Ansaldo e STS. Ecco perché le strategie naturalmente di dismissione piacciono al mercato, per la riduzione del debito Finmeccanica ha guadagnato un 3,5% e Ansaldo e STS, che potrebbe essere la preda, insomma l'oggetto di dismissione in questo caso, ha guadagnato il 2,6%. Per Luxottica già molto buona ieri, qualcuno si aspetta un dividendo straordinario, è arrivato anche il miglioramento del rating da parte di Standard & Poor's ieri sera e questo ha fatto guadagnare al titolo un ulteriore 2,2%, un buon riscatto di Fiat dopo la giornata negativa, ma oggi era la giornata della firma dell'accordo per salire al 100% di Chrysler, accordo che firma che c'è stata, il mercato ha diciamo premiato il titolo con un più 1,8%. Ancora tra i titoli oggi in recupero le banche, dopo la discesa di ieri c'è una iniezione di liquidità della banca centrale, della banca cinese. Comunque le banche, UbiBanca più 1,80 e ancora Popolare Emilia Romagna più 0,90, Unicredit più 0,90 e Intesa San Paolo più 0,30%, sui migliori e peggiori, Cell Therapeutics meno 6,70, Moncler meno 6,5, qui gli analisti consigliano la vendita, ma forse perché fa meno freddo del previsto, buttiamola così, Invest meno 6,40, Zucchi meno 6%, il miglior titolo Biancamano più 29%, Screen Service Broadcasting più 19%, Bastogi più 18%. Grazie a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. E noi adesso ci spostiamo, restiamo in tema di finanza, perché c'è un luogo nelle Alpi Svizzere dove ogni anno si riunisce quello che si chiama in maniera giornalistica il Gotha della finanza, dei banchieri, dei politici a livello mondiale. Il nostro sogno è che si smetta di commentare il World Economic Forum di Davos come l'evento, anche perché da questo evento io non ho ancora capito che cosa esce. Non hanno saputo prevedere la crisi che sarebbe arrivata da lì a un anno, fu l'unico Rubini a dirlo, e continuano a porsi temi altissimi, perché il tema di quest'anno, dov'è che l'ho perso, è un tema praticamente, eccolo qua, rimodellare, il titolo di quest'anno è rimodellare il mondo, conseguenze per società, politica ed economia. Prima scherzavamo dicendo fa apparire Dio una specie di ragioniere, rimodellare il mondo. Allora, 2500 delegati, 40 capi di Stato di governo, tra cui il premier Enrico Letta, il giapponese Shinzo Abe, la presidente brasiliana Dilma Rousseff, il premier inglese David Cameron, vi sarà anche Mario Draghi e il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde, non vi sarà François Hollande, e invece non vi sarà anche Angela Merkel, che ha problemi di salute, appunto è ancora reduce dalla frattura al bacino. Vittorio D'Arolde, inviato da Sole 24 Ore a Davos. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Nevica? No, non nevica. E questo è tutto del collegamento, grazie. La prima cosa che manca qui a Davos è la neve. Beh, ce n'è poca e addirittura nei prati, qualche prato è senza neve. Siamo distrutti dal dolore. Senti, per il resto non mancano gli ospiti anche quest'anno, ma insomma, che cosa si dovrebbe ottenere, visto che l'organizzatore ha detto è uno dei più importanti, sono emozionato come non mai, anche noi, ma che cosa uscirà, a parte gli incontri B2B per fare affari, giustissimi, insomma, da questo Davos? La prima cosa da dire è che i catastrofisti che si erano visti appunto all'opera negli anni passati, soprattutto sull'Eurozona, sono spariti. Oggi tutti vedono la ripresa, anche Rubini, come parlavi tu prima, di cui citavi tu prima, il Mr. Doom, il Mr. Catastrofe, parla di crescita americana tra il 2,5 e il 3, per l'Europa allo 0,9, anche il Giappone dovrebbe andare tra l'1,5 e il 2, quindi c'è un clima di moderato ottimismo, soprattutto guardando alla ripresa americana, però ci sono anche naturalmente dei rischi all'orizzonte e di questo parleranno. Cosa potrà far deragliare la ripresa globale? Questo è il tema. Poi rimodellare il mondo, come tu giustamente facevi notare, sono sempre un po' obiettivi molto vasti, molto ampi, da poterci far contenere tutto ciò che è stato la crisi passata e le proposte migliori per poter ritrovare a rimettere a posto quel vaso di Pandora da cui è scatenata tutta la crisi. Sì, e che ricordo, prego. Hanno parlato di, soprattutto di tapering della Fed, questo è un po' il tema che preoccupa molto soprattutto i mercati emergenti e che potrebbero avere problemi i paesi che hanno deficit delle partite correnti e quindi potrebbero soffrire se il flusso di capitali dovesse tornare verso l'America e verso l'Europa. Soprattutto Turchia, India, Venezuela, Indonesia, anche più vicino l'Ungheria. Spaventa molto anche la Cina, questo calo che c'è stato in Cina del PIL, e si teme anche un credit crunch cinese. Poi il debito USA e il debito giapponese, questo fa abbastanza paura. Certo, però hai fatto... ci sono tanti temi. Sì, esatto. Hai fatto bene a ricordare che appunto i temi sono quando l'America smetterà di stampare moneta, che cosa capiterà alle valute, il dollaro si indebolirà, la crescita cinese più lenta del previsto e quant'altro. Però dicevo, hai fatto bene a ricordare che è forse il primo forum da anni che non parte con un pessimismo, diciamo, come cappello unico, ma in realtà vede anche degli spiragli. Continuiamo a parlarne, ringrazio intanto Vittorio D'Aroldo, dopo il traffico. Sì, parliamo dei temi di Davos, ma anche appunto dell'Ocse, dell'Unione Europea di oggi sulla disoccupazione e sul declino, che in Italia è stato più pesante che altrove da quando è scoppiata la crisi. Mentre anche il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le stime per il 2014-2015 nell'area euro e negli Stati Uniti, le ha ribassate un po' per l'Italia, più 0,6%, quest'anno ha alzato un pochino per il 2015, più 1,1%, chiede alla Banca Centrale Europea di non smettere di aiutare con gli aiuti monetari e dice che può anche fare di più la Banca Centrale Europea, e poi dice attenzione, l'area euro è a rischio deflazione e quindi prezzi in calo, che metterebbe a repentaglio la ripresa portando un artificioso aumento dei tassi di interesse reali. Professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera. Buonasera a voi. Quindi secondo il Fondo Monetario, con nonostante un complessivo miglioramento delle previsioni di crescita, il pericolo è di nuovo l'area euro e il rischio deflazione, è d'accordo? Ma in linea di massima sì, soprattutto per l'area euro, per il resto del mondo navighiamo abbastanza nell'incertezza e mi sembra che questi continui capovolgimenti del Fondo Monetario e dell'OCSE, i quali un po' aumentano, un po' riducono, dimostrino che non abbiamo una buona chiave interpretativa di quello che sta succedendo. Però oggi, sempre come ricordavamo, l'Unione Europea ha detto che l'Italia è il paese che dal 2008 ha conosciuto il declino più elevato della situazione sociale di chi lavora. Oltre il 12% degli occupati non riesce a vivere del suo stipendio. Solo Romania e Grecia fanno peggio, ma la loro situazione era già grave nel 2008. Come mai, secondo lei, l'Italia è il paese dove più si è sentita, o meglio, il declino ha corso più rapidamente, anche perché questo dato si unisce all'altro dato dell'Unione Europea che dice che l'Italia è il paese peggiore per chi perde lavoro. Le possibilità di trovare un altro lavoro sono tra le più basse in Europa. Perché il declino da noi si è sentito più che in altri paesi? Ma è perché in realtà la crisi si è sommata su una situazione di debolezza che parte dagli anni 90 e che ha eroso molto lentamente la nostra base produttiva. Su questo poi ci sono stati degli indurimenti del tessuto, soprattutto dal punto di vista burocratico, per cui i costi delle imprese sono aumentati anche e soprattutto come burocrazia. E a questo punto siamo da questo verso paese peggiore, cioè siamo quelli che si sono rotti una gamba ma hanno anche il diabete. Sono rotti una gamba ma hanno anche il diabete, e se ne esce solo con le riforme, mi sembra di capire dal suo ragionamento. Riforme vere, al di là della legge elettorale. Sì, le, rifo- riforme che dobbiamo fare sono sostanzialmente riforme di procedure, cioè vuol dire riforme di amministrazione pubblica che riducano questi costi, e poi di riorganizzazione dell'amministrazione stessa. E quindi snellimento burocratico e riforma dell'amministrazione pubblica, che non vuol dire, lo dico a tutti, solo tagli del personale, vuol dire riduzione dei costi dei beni intermedi, quanto ci costano gli approvvigionamenti e poi tutti i costi che vengono generati. Attenzione, io vedrei dei tagli al personale che poi devono avvenire con la dovuta gradualità, uniti a un miglioramento della qualità. Cioè la nostra sfida è questa, produrre meglio con meno persone. Sì, e poi anche per quello che riguarda i costi impropri degli oneri burocratici, ne abbiamo parlato molte volte, questo significa snellire per esempio tutti i vincoli e i numerosi passaggi che servono in Italia per avviare un'attività, un'impresa. Non parlo solo della grande impresa, parlo anche della piccola attività commerciale. Ancora, professor Draghi, questo però, questo rapporto Fondo Monetario ma anche dell'Unione Europea, arriva, come ricordavamo con Vittorio Darold, nel giorno in cui si apre la 43esima edizione del Forum di Davos. Appunto 2500 delegati, 40 capi di Stato e di Governo, da Enrico Letta al giapponese Shinzo Abe, Mario Draghi sarà presente, Christine Lagarde già la ricordavamo, banchieri centrali, ministri degli esteri. L'obiettivo di quest'anno del forum è rimodellare il mondo, conseguenze per società, politica ed economia. Rimodellare il mondo fa sembrare Dio una specie di geometra, o no? Sì, diciamo che sono bravissimi a trovare gli slogan, hanno sempre dei buoni slogan, una buona grafica, ci sono dei discorsi che sono fatti bene, ma tutto sommato è solo un salotto buono in cui si va per sentire le confidenze degli altri, non c'è nessun potere decisorio, è utile che la gente si conosca, cominci a lavorare assieme, ma più in là di quello non si va. Ma voglio dire, Davos serve ancora, io capisco l'effetto relazionale per chi fa affari, conosce le banchiere, conosce le grandi amministratori legati alla grande multinazionale, ma al di là di questo poi c'è chi da un lato vede in Davos l'esempio più lampante, più fulgido della, mi passi il termine, della cricca, dei poteri forti, del Bilderberg esteso a livello planetario che regolano i destini economici. E c'è chi dice invece è un modo per fare affari in una simpatica località di montagna in Svizzera. Quale delle due? Ma direi molto più la seconda, perché se veramente di complotto dobbiamo parlare, non hanno bisogno di andare a Davos, si incontrano lontano dai riflettori. Quindi vanno a Davos più o meno per questi scopi più ridotti, diciamo, ma molto più concreti, cioè di guardarsi in faccia e di poter poi far parte del club. Allora, mancherà tra gli assenti illustri François Hollande, anche perché insomma ha altri problemi in questo momento, ma anche Angela Merkel, che invece è ancora convalescente dopo la frattura del braccio. Davos si apre però nel giorno in cui il Oxfam International, che è praticamente questa grande organizzazione mondiale di aiuto e di lotta alla povertà, la principale in Gran Bretagna, diffonde il rapporto di cui già parlavamo prima. A me è impressionato, anche se è facile poi farsi impressionare, come non solo dal rapporto Oxfam emerga un aumento anche nei paesi emergenti della divaricazione tra i più ricchi e i più poveri. I grafici su Cina, Indonesia, Brasile sono emblematici, ma soprattutto quando leggiamo che gli 85 super ricchi del mondo posseggono l'equivalente di quanto detenuto da 3 miliardi e mezzo della popolazione mondiale, cioè da metà del mondo, allora fa impressione. Il problema è che Oxfam continua dicendo i più ricchi, e non sono solo questi, ma è l'1% della popolazione mondiale che ha l'80% della ricchezza, piegano la politica e i loro interessi a spese della stragrande maggioranza. Le elite economiche mondiali agiscono sulle classi dirigenti politiche per truccare le regole del gioco economico, erodendo il funzionamento delle istituzioni democratiche, generando un mondo appunto in cui 85 super ricchi valgono come metà della popolazione mondiale. Allora, è sempre successo nella storia che l'elite, qualunque fosse la loro espressione, avessero, proprio perché elite, potere di intervento più forte. Ma questo non ci deve far stare meglio. Lei è d'accordo che vi sia stato un incremento, diciamo, della divaricazione? Assolutamente sì, è visibile da tutte le statistiche, è uno dei dati meno controvertibili che ci siano. Si arriva a delle punte di assurdità, cioè questo 1%, soprattutto negli Stati Uniti, che si trova ad avere appropriato, diciamo, quasi tutta la ricchezza nuova in certi anni o in certi periodi. Infatti dobbiamo domandarci dove si va di qui in avanti. Così non credo che possa durare molto. Quindi o si fa una crescita che è più favorevole alle classi meno agiate, oppure si rischia un aumento molto forte delle tensioni sociali e probabilmente delle tensioni politiche. Ma come si fa, professor Daglio, a fare una crescita poi concretamente che vada più a vantaggio delle fasce medie e medio-basse? Cioè il potere redistributivo che leva usa? Ma il potere redistributivo dovrebbe usare le leve classiche, cioè in questo caso una forma di imposta patrimoniale o altre cose del genere. Inoltre non sarebbe poi, se uno guarda nel lungo periodo, tutti i bilanci pubblici vanno comunque in crisi per effetto dell'invecchiamento, delle spese per la salute. Credo che dovremmo ragionare con tranquillità sul fatto che forse non tutti i debiti dovrebbero essere restituiti, ma una parte potrebbe essere destinata a così ad alleviare questo divario che avrebbe socialmente delle difficoltà molto gravi. Ma lei parla dei debiti dei paesi sviluppati o dei paesi in via di sviluppo? Dei paesi sviluppati. C'è anche il nostro? C'è anche il nostro, c'è uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali di 2 anni fa, se non sbaglio, che fa vedere molto chiaramente come in realtà il nostro anticipa soltanto di qualche anno quello che sta succedendo dappertutto, cioè il debito su PIL aumenta e non ci piove, non è possibile fare diversamente, tutto sommato. E dovrebbe poi arrivare al nostro livello, cioè intorno al 130%. A questo livello è probabile che bisognerà ridurre molto il pagamento degli interessi e, se si vuole distanziare nel tempo, il rimborso di una parte di questo debito. Grazie, chiarissima anche la sua analisi proposta su questo. Grazie al professor Mario Daglio, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.